Zolt. Fulminati in azienda. Allora ragazzi, la situazione è drammatica. Tutte le iniziative fatte per diversificare il nostro business hanno portato zero, e dico zero. E allora voglio un'idea, una seria adesso, schedula. Marco, ti garantisco che la mia idea funzionerà. Guarda, ti do la mia parola, sono certa, sicurissima. Sì. Allora dimmi che cosa pensi di fare, avanti. Guarda, è semplicissimo. Noi delle risorse umane, viste le competenze e la professionalità che il mercato ci riconosce, potremmo offrire un servizio di selezione del personale alle altre aziende. Cioè, mi stai capisci? Dicendo in parole povere che ti metti a lavorare per le altre aziende? Gli fai la selezione delle persone nelle altre aziende, è questo? Sì, mi pare di banalizzare, però sì, in sunto è questo. No, banalizzare potrebbe anche essere un'idea geniale, così gli dai loro gli scartini e noi ci prendiamo i migliori. Paragone, cosa ne dici? Trovo possa essere una prospettiva interessante quella di utilizzare le vostre elevate competenze di selezione del personale e metterle a disposizione del mercato. Sarebbe un'occasione di forte crescita per l'intero settore. Grazie. Sì, soprattutto un'occasione di crescita per noi e per le nostre casse. Un bel modo di reperire quattrini, cash, denaro contante. Schedula, partiamo subito e mi raccomando, fatti pagare bene. Pronto? Pronto, grandissimo, sono sul pezzo. Ciao Marco, grande, come stai? Io sto bene, squalo, e te come te la passi lì dalle tue parti? Ma guarda, sto a fare uno spuntino, Marco, mezzo filoncino con la porchetta, sai, per tenermi leggero. Leggerissimo, squalo, tanto per cambiare, leggerissimo. Allora, cosa mi racconti? Dammi un po' il polso della nostra forza vendita. Ma quale forza vendita, Marco? Qui non c'è sta più nessuno. Ma come nessuno, squalo? Cosa stai dicendo? Ma guarda, è un disastro, se stanno tutti a licenziare, fuggi ma generale. No, ma dai. Per ora sto a tappaio i buchi, ma c'ho in mano tante di quelle province da coprire che mi pare di giocare a Risico. Uè, Risico, ma com'è possibile? Ascolta, metto giù perché voglio capire cosa sta succedendo. Ciao, squalo, grazie mille, ciao. Marco, posso? Scusami. No, Marco, posso. Devi, c'entri. Devi proprio te, cercavo. Ho sentito adesso lo squalo. No, ma che ho fatto qualcosa? Ma com'è che hai fatto? Ha detto che la nostra forza vendita ci sta abbandonando. Ma cosa succede? Ce lo so, Marco. È questa attività di selezione di cui si sta occupando Schedule. È un disastro. Ma come è un disastro? Anche tu parli di disastro. Cosa vuol dire? Vuol dire che sto lavoro, Schedule, diciamo che lo sta a fa fin troppo bene. E cioè, spiegati. Non tenermi sulle spalle. Marco, Schedule non solo sta dando alle aziende concorrenti le migliori risorse del mercato, ma sta pure cedendo ai nostre, hai capito? Amo già dato ai competitor il 60% della nostra forza vendita, metà del marketing, eppure il portiere del palazzo ci hanno fregato. Sì, pronto? Squalo, grandissimo, sono sul pezzo. Marco, ciao, grande, come va? Grande, ti porto buone notizie, tutto risolto. Ascoltami, ho appena liquidato Schedule e l'ho spedita in esilio 2 mesi a Torpagnotta. Grande Marco, sei sempre un numero uno, Marco. Ma la vera bella notizia è questa, che adesso io e te, noi due, prendiamo in mano il team che si occupa delle selezioni. Abbiamo 2 obiettivi, squalo. Il primo è riprendiamoci la nostra forza vendita. Come fatto, Marco? Ce penso io. E l'obiettivo numero 2 è diamo un senso a questo business differenziato e iniziamo io e te a reperire sul territorio nuova linfa. Ma che non è che te vuoi mettere a assumere davvero, Marco? Vabbè, assumere è una parola grossa, squalo, però dico, qualche giovane stagista che alzi il morale ai venditori, dico, come la vedi tu? Avendo lo mercato sui maccheroni, provvedo io, Marco, colloqui di selezione in trattoria d'Ananda e ti aspetto. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z 2O 1T